Kunga wo wanti tusu imuvana kebo kofumu kunga wo luimbulo imuziti safumu nzambi kunga wo wanti tusu imuvana kebo kofumu Kunga wo wa mayangi imuvana kemo kwa fumu Nkundi dimba Kunga wo kwa fumu Nkunga ya mona Usani sina Yabe Mukunziti sambika twasika tsangu Mukunziti sambika twasika ngongi Mungolo zazo Imutima wake erika Mpange dimbe Kunga wo Dimbe Wanzi tusu Imuvana Imuvana Kemo kwa fumu Yeah Pange dimbe Kunga wo Kunga wo wamayangi wamayangi imuvana imuvana kemo kwa fumu Dalazinuni zeti yimbi la nkembo kwa fumu Dalazinuni zazulu zeti yimbi la mkembo kwa fumu Gidia ubeto pe tu yimbi langa yimbi langa Mukunziti sabika twa sika tiaki Mukunziti sabika twa dudankindu Bangi mungolo zazo Yemutima wakenika Bangi nime Kunga wo Wanzi tusu Wanzi tusu Imuvana Imuvana Kebo kwa fumu Kunga wa mona inzi tusu Kunga wo wamayangi imuvana kemo kwa fumu kunidimbeche kunidimbeche bangi dimbeche Bangi di beche, tada di tada di beche, tada di magunga wawa, tada di beche, mama mama mama mama, mama di beche, mama di beche, tufana zito sukwa fumu, toko di beche, toko di magunga wawa, toko di beche, tuma di magunga wawa, tuma di beche. Bangi dimba dimba dimba kunga wo Tata dimbe che Tata dimbe he Tata dimbe che Tata dimba kunga wo wakitope Mama dimbe che Mama dimba dimbe Mama dimbe che